sotto la luna nel suo bagliore d'oro. Passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accento, vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di un mille. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Marmo lucente, un passo svogliato, i sogni giacciono sotto dal tempo amato. Fruscio di seta, bicchieri che brillano lungo i canti, le ombre si inclinano. Il violino sospira, il pianoforte si perde, un'aria di mistero. L'ambiente si stende, ogni melodia canta di un tempo lontano, vecchia moneta in ogni mano. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di un mille. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del è tutto un virtù. Sotto il soffitto di stelle che ardono, storie di fortune ci accompagno. Ma nel domani c'è un sussurro che chiama l'eco di ieri. Nessuno lo reclama.